Sarah and Lorenzo have arranged to meet for dinner at 9 o'clock. You can hear more about that in Unit 3. But now it's time to listen again to some of the dialogues from this unit. And with all the Italian you've learned so far, you'll have no difficulty understanding exactly what's going on. Alla reception. Buonasera. Buonasera, mi dica. Avete una camera prenotata a nome Jenkins? Un attimo. Dunque... No, mi dispiace. Non c'è niente a nome Jenkins. Ma è sicura? Può controllare di nuovo, per favore? Certo. Ma, scusi, come si scrive? Sara, come si scrive il suo cognome? I'm sorry? How do you spell your surname? J-E-N-K-I... Allora, Ilunga E-N-K-I-N-S. I-N-S. Con la Ilunga e la K, sì. Sì, certo, Jenkins. Sera con l'H, giusto? Giusto. Meno male. Is there a problem? No. Nessun problema. Dunque, una camera doppia, vero? Doppia? Sara, vuole una doppia? A double room? A double? Of course not. Ho capito. Una singola, allora. Una singola, certo. Con bagno o doccia? Do you want a bath or a shower? Oh, a shower's fine. Una singola con doccia, allora, per favore. Va bene. Fino a martedì, giusto? Dunque, oggi è venerdì. Sì, 4 notti, vero, Sara? 4 nights. Yes, that's right. Giusto. Posso avere il suo passaporto, per favore? My passport? Yep, here you are. Grazie. Una firma qui, per favore. Sign here, please. Here? Sì, grazie. Ecco il passaporto e questa è la chiave. La camera è la 37. La 37? Bene. È al terzo piano. Room 37 on the third floor. C'è l'ascensore? Certo, a destra. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera. Buonasera. Ecco l'ascensore.